Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La Lega sfonda al centro, il PD cala anche nelle roccaforti rosse per le amministrative, ballottaggi al comune di Firenze e alla provincia di Milano. E intanto si apre la campagna per il referendum. Berlusconi incontra Bossi, dice no all'appoggio alla consultazione per la riforma elettorale. Marchionne non cede, una corte americana ha bloccato l'operazione Chrysler, ma il Lingotto dice non molleremo mai. Clandestini nascosti nei tir per raggiungere l'Europa, 46 arresti. Domani Gheddafi a Roma attende 700 donne, ma alcune dicono no, non parliamo con chi non rispetta i diritti umani. Sul suolo americano il primo detenuto di Guantanamo sarà il progetto pilota di Obama. Roma sotterranea, siamo andati a visitare il cantiere della nuova linea metropolitana. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Ed è dunque oggi il giorno delle analisi, dei commenti dopo i risultati oramai definitivi delle elezioni amministrative per province e comuni. Il quadro è un quadro in cui il centro-sinistra è in difficoltà, avanza il centro-destra con la Lega, soprattutto che sfonda il centro Italia. C'è però da aggiungere che tra due settimane ci saranno i ballottaggi e alcuni saranno decisivi. Allora cominciamo con il fare un quadro. In studio con noi c'è Simone Spezia. Buongiorno Anna, buongiorno Alessio e buongiorno naturalmente ai nostri ascoltatori. Allora, vi do un dato su tutti per dare un attimo la dimensione di queste elezioni amministrative. Per quanto riguarda le province, il Partito Democratico, il centro-sinistra in genere, passa da quota 50 province governate a quota 14. Naturalmente ci sono ancora i ballottaggi da fare, però ci sono 15 le province che erano governate dal centro-sinistra che vanno direttamente al centro-destra senza passare dal ballottaggio. PDL e Lega si portano a casa dunque 26 province. Si parlava di un'avanzata anche nelle regioni storicamente del centro-sinistra. Tra questi casi c'è naturalmente da segnalare Piacenza, nel cuore della cosiddetta Emilia Rossa, dove Massimo Trespidi, sostenuto anche dall'UDC, ha battuto l'uscente Gianluigi Boiardi con il 52% dei consensi. Per quanto riguarda le altre province dell'Emilia Romagna, ossia Parma, tanto per dire, oppure Rimini, i candidati di centrosinistra sono ampiamente in vantaggio, seppure si andrà al ballottaggio. Per quanto riguarda il resto, naturalmente c'è da segnalare il caso Napoli. Luigi Cesaro ha vinto al primo turno con il 58% ed è la prima volta da quando nel dicembre 93 è cominciata la cosiddetta era Bassolino che il centrodestra si aggiudica una competizione sul suolo partenopeo. Podestà è in vantaggio per quanto riguarda la provincia di Milano, ci sono 10 punti di distacco dall'uscente Penati, però insomma appunto si andrà al ballottaggio e là si vedrà. L'avanzata all'interno delle regioni cosiddette rosse, il PDL nelle europee, il primo partito sia nell'Umbria che nelle Marche, e però nelle comunali, ad esempio a Perugia, ha vinto il centro-sinistra con Vladimiro Boccali. Questo più o meno il quadro generale della situazione. Come dicevate voi, ballottaggi anche in tradizionali roccaforti rosse per quanto riguarda le comunali come Firenze e Prato in Toscana oppure Bologna. A voi. Grazie Simone Spezia, e di politica, di elezioni amministrative parleremo ancora tra un attimo. Prima però vogliamo farvi sentire un monito arrivato questa mattina proprio agli amministratori locali, quindi alla politica, dal presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Sentiamo. Troppo spesso nel nostro paese, nel passato, ci si è fermati nel dire, nel scrivere magari bei programmi, belle leggi, e non si è invece lavorato sul punto che per noi è il punto essenziale, cioè quello dell'applicazione. Buone leggi, buoni programmi, se non vengono applicati nel modo giusto, non cambiano la situazione e non risolvono i problemi. E quindi noi pensiamo che il buon governo del paese proprio passa innanzitutto attraverso un'amministrazione efficiente. E dicevamo, ne parleremo ancora più avanti, ci sono molte analisi, molti commenti da fare, tra l'altro ha già parlato anche il premier Berlusconi che in una nota ha escluso un appoggio diretto al referendum che ci sarà in contemporanea con i ballottaggi. Gran parte di Extra Large lo dedicheremo ancora al voto delle amministrative, ma prima però andiamo alla Camera. Sì, perché oggi si discute proprio alla Camera il lodo Alfano, uno dei nodi politici delle ultime settimane. Andrea Viali. Sì Alessio, riparte dalla giustizia l'attività a Montecitorio dopo la pausa per le elezioni. Stamattina, come dicevi, in aula è iniziata la discussione sulla mozione che è stata presentata dal segretario del PD Franceschini, che chiede sostanzialmente di abrogare il lodo Alfano, la legge, lo ricordiamo, che sospende i processi nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. Il voto è previsto nel pomeriggio, ma è improbabile che questa mozione possa passare. Ma il vero scontro è quello in realtà che seguirà sempre nel pomeriggio, quando sono previste le votazioni sul disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, un testo che riduce i casi in cui gli inquirenti potranno ricorrere a questo strumento, ma ne limita anche la pubblicazione nei giornali. Stasera o forse domani il governo potrebbe decidere di mettere la fiducia sul provvedimento per velocizzarne l'iter, fiducia che è stata già autorizzata dal Consiglio dei Ministri contro il DDL sulle intercettazioni. Stamattina qui davanti a Montecitorio hanno protestato i rappresentanti del Sindacato dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, che hanno anche incontrato alcuni parlamentari del Partito Democratico. Per il momento dalla Camera è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E movimenti ci sono anche in Europa dopo il voto per il Parlamento di Strasburgo. Si aprono qui infatti giochi anche per il rinnovo in autunno della Commissione europea. Resta in campo per ora l'attuale presidente José Manuel Barroso. Questa mattina ha incontrato il presidente di turno dei 27, il premier della Repubblica Ceca Jan Fischer, che ha formalizzato per lui l'offerta di un secondo mandato. Sono onorato, ha detto Barroso, per ora è il solo candidato ufficiale che sarà sottoposto all'assenso dei 27. Un vertice si svolgerà la prossima settimana a Bruxelles. E ora un nuovo capitolo nella vicenda Fiat Chrysler, che avevamo lasciato qualche giorno fa in attesa di sviluppi. La Corte Suprema americana, come sapete, ha messo un freno all'operazione di acquisizione della casa americana da parte del Lingotto, e da Torino però arriva una replica, sentiamo. Su Chrysler non faremo mai un passo indietro. Pochi minuti dopo il rinvio della cessione degli asset della casa americana deciso dalla Corte Suprema USA, il commento di Sergio Marchionne, perentorio. Dobbiamo essere pazienti e lasciare che la giustizia faccia il suo corso, ha detto al telefono l'agenzia Bloomberg, mentre in Italia erano passate le 22. Morale, Fiat, che sa di avere dalla sua parte la Casa Bianca, non ritirerà la sua offerta, neanche nel caso in cui dovesse scadere la data del 15 giugno, data entro la quale va ufficializzato il contratto. Intanto, da Torino, dal distretto dell'auto, arrivano i primi timidissimi segnali di ripartenza. Il presidente degli industriali, Gianfranco Carbonato. In generale vediamo sul sistema delle imprese un po' di luce in fondo a questo tunnel. Per ora sono indicazioni, diciamo, piuttosto flebili, però le nostre previsioni normalmente ci azzeccano. Quindi è fondamentale in questa fase che il sistema bancario non faccia mancare la liquidità e non faccia mancare il sostegno alle imprese. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. Maxi operazione contro l'immigrazione clandestina. Sono scattati questa mattina decine di arresti in tutta Italia e in altri 7 paesi europei. Dall'Iraq venivano trasferiti in Turchia, da lì in Grecia, per poi arrivare in Italia, imprigionati in gabbie metalliche chiuse nei tir, ammassati tra la merce, a bordo di carrette del mare o su traghetti di linea diretti a Venezia, Ancona, Verona, Bari e Brindisi, anche in questo caso nascosti all'interno di camion. L'organizzazione criminale transnazionale con base in Kurdistan, sgominata dalla polizia di Stato, in 3 anni ha fatto entrare in Europa migliaia di migranti curdi e iracheni. Gilberto Caldarozzi, direttore del servizio centrale operativo della Polizia di Stato. L'organizzazione era strutturata in cellule presenti in vari stati europei, la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, la Grecia. In Italia abbiamo avuto 32 arresti e negli altri paesi 14 arresti, quindi per un totale di 46. Stiamo ricercando altri soggetti. L'accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani. L'operazione in Italia è stata denominata Ticket to Ride, un biglietto per viaggiare in condizioni disumane pagando dai 4.000 agli $8.000. Secondo il ministro dell'Interno Roberto Maroni, il risultato di oggi conferma l'efficacia dell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina messa in atto dal governo. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto sarà proprio da domani in Italia il leader libico Gheddafi, che è stato con Berlusconi al centro del recente accordo tra Italia e Libia, che prevedeva anche la lotta all'immigrazione clandestina. Nella sua visita a Roma ha chiesto di incontrare 700 donne italiane del mondo della cultura e dell'imprenditoria, ma alcune di loro in una lettera aperta hanno declinato l'invito. Tra le firmatarie ci sono nomi come quello dell'astrofisica Margherita Hack, della scrittrice italo-etiope, autrice di Regina di Fiori di Perle, Gabriella Germandi, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Perché? Perché non volete incontrare Gheddafi? Perché quello che succede in Libia alle donne e agli uomini migranti che cercano di venire in Occidente è una cosa inenarrabile. Ho passato solamente questi ultimi giorni assieme a una ragazza che mi ha raccontato il suo viaggio. Attraversare quel paese è peggio dell'inferno, non serve una guerra. Chi arriva in Libia vive un'odissea. Bisognerebbe veramente ascoltare anche solo una di queste persone per comprendere che cosa succede lì. Non sarebbe meglio dirle direttamente a Gheddafi, visto che ne avreste l'occasione? In questo modo noi la stiamo dicendo a Gheddafi. Nella vostra lettera voi ce l'avete col governo italiano, ma mi pare di capire anche con l'Unione Europea. Sì, perché c'è l'agenzia Frontex che controlla le frontiere, che è andato in uno dei carceri più crudeli, oltre che il carcere di Kufradex. Hanno detto che loro in realtà non hanno avuto abbastanza tempo per comprendere com'era la situazione, ma per comprendere com'era la situazione non era necessario poi chissà che cosa, perché bastava entrare in una delle stanze e accorgersi quando la gente sta in un carcere in 60-70 in una stanza che è 6x8 dove non c'è il bagno e scorre sul pavimento l'urina e le feci delle persone che dormono lì da mesi, è sufficiente per comprendere come sia la situazione. Crediamo che sia in parte anche responsabilità dell'Europa. E rispetto a Gheddafi noi denunciamo più l'Europa, perché l'Europa si ritiene un continente, adesso paese democratico, quindi se è democratico faccia in modo che venga applicato anche un trattamento umano a questa gente. Gheddafi ha chiesto di incontrarvi in 700, in quanto avete firmato questa lettera e quindi non andrete? La lettera sta circolando e penso che saranno migliaia le firme in pochi giorni. E grazie alla scrittrice Gabriella Germandi. Un'altra notizia: è giunto sul suolo americano a New York City Ahmed Gailani, è il primo detenuto di Guantanamo che sarà processato negli Stati Uniti. Sarà questo un test cruciale per i progetti dell'amministrazione Obama di chiudere il carcere sull'isola di Cuba, portando alcuni dei sospetti terroristi sul suolo statunitense per un processo diverso, un processo in nuovi tribunali militari. Gailani, tra l'altro catturato in Pakistan nel 2004, viene considerato un detenuto di alta importanza. E ora ci trasferiamo a Baghdad, almeno virtualmente, per un progetto in collaborazione con l'Italia. Chiuso nel 91 per la guerra del Golfo e saccheggiato nel 2003 durante l'invasione degli Stati Uniti proprio in Iraq, dopo il recente restauro il museo di Baghdad riparte, sempre col sostegno italiano, anche col suo nuovo sito internet presentato oggi. E allora il coordinatore scientifico del CNR Massimo Cultraro lo ha intervistato, Adriana Fracchia. È un tour virtuale che dura più di 6 ore attraverso i principali tesori della Mesopotamia antica. Sappiamo quanto sia stretto il legame tra questa terra, la terra tra i due fiumi, come la chiamavano i greci, e il Mediterraneo. Tutte le civiltà antiche del Mediterraneo sono fortemente debitrici delle grandi realizzazioni di ingegno del mondo mesopotamico, la scrittura, la ruota, l'invenzione stessa delle prime pratiche agricole. Si tratta di un'opera multimediale diversa da quelle alle quali siamo solitamente abituati. Abbiamo insistito molto sulla interazione dell'utente con quello che vede, quindi la possibilità per esempio di vedere un oggetto in posizione ravvicinata, manipolarlo grazie alle più sofisticate tecnologie del tridimensionale. Alle 13:18 minuti apriamo dunque l'annunciata finestra, l'ampia finestra di Extra Large di oggi sull'esito delle elezioni amministrative. Non appare oggi opportuno un sostegno diretto al referendum. All'indomani del successo di PDL e Lega all'Europea, alle amministrative, Silvio Berlusconi frena così sulla consultazione popolare del 21 giugno. Questa è la posizione emersa durante l'incontro con il leader della Lega, Umberto Bossi. E allora cominciamo in diretta con Vincenzo Miglietta a cercare di capire cosa è successo per il PDL e la Lega in queste elezioni. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. È un clima diverso quello che si respira oggi nel Popolo della Libertà. I risultati delle amministrative, con tra l'altro 17 province tolte al Partito Democratico, hanno portato una nuova euforia nel principale partito della maggioranza di governo. Successo elettorale che è stato condiviso ieri sera in una cena ad Arcore tra Berlusconi e Bossi. Oggi Palazzo Chigi ha emesso un comunicato in merito proprio all'incontro tra i due leader. Di fatto si guarda già ai ballottaggi, vi è la necessità condivisa, viene spiegato, di un comune e forte impegno a sostegno dei candidati per completare l'eccezionale affermazione della maggioranza. Altro capitolo, il referendum. Berlusconi spiega che non appare oggi opportuno un sostegno diretto alla prossima consultazione. Per il Premier la riforma della legge elettorale deve essere conseguente alle riforme da tutti auspicate del bicameralismo perfetto. È questo un cambiamento netto di posizione da parte del Premier sul referendum? Circa un mese fa, lo ricordiamo, lo stesso Berlusconi fece capire che il successo del sì avrebbe favorito il Popolo della Libertà. E da come è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto il Partito Democratico riparte dal suo 26%, soglia che garantisce per ora il segretario Dario Franceschini e gli consente di proseguire il suo lavoro, ma rimangono tutte le difficoltà di un'opposizione minoritaria e divisa. Allora andiamo con Elisabetta Fiorito. Dopo la tenuta all'Europea, il PD conta le perdite delle amministrative, attende i ballottaggi di Firenze e Bologna, guarda al futuro e cerca anche nuovi alleati, magari l'UDC di Casini. Paolo Gentiloni ammette: non stappiamo bottiglie per il 26%, è solo la conferma della forza del progetto, una base su cui poter costruire con altre forze di opposizione un'alternativa al governo. Guardiamo con attenzione alla possibile maturazione di forze che sono in una logica riformista e penso che ci siano le premesse per tentare un gioco di alleanza con l'UDC. Più netto è il giudizio dell'ulivista Arturo Parisi: il berlusconismo si è fermato, il viaggio di ritorno è già iniziato. I risultati di queste elezioni sono la prova sicura che Berlusconi ha perso la sua scommessa riguardo alle preferenze personali, che sono scese. Ma anche Parisi ammette che non si può comunque mettere in dubbio la prevalenza del centrodestra sul piano politico e neppure il primato del Popolo della Libertà. Tutto questo in vista di due ballottaggi nevralgici per il PD nei comuni di Firenze e Bologna, roccaforti della sinistra, mentre la direzione del partito del 26 prepara la resa dei conti e il congresso autunnale. Sembra sempre più probabile una sfida tra l'attuale segretario Dario Franceschini e Pierluigi Bersani. E per il momento qui dal PD è tutto, voi studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Ovviamente mancano gli ultimi verdetti che arriveranno tra due settimane, quando si andrà al voto, oltre che per il referendum, come dicevamo, anche che ci sarà l'esito dei ballottaggi, alcuni dei quali decisivi, come lo è ad esempio Firenze, dove il candidato del PD al comune Matteo Renzi, sostenuto da PD, Italia dei Valori, due liste civiche e Sinistra per Firenze, ha ottenuto il 47,6% contro il 32% di Giovanni Galli, candidato del centrodestra. Renzi è stato ospite questa mattina a Radio 24 a 24 mattina. Io volevo vincere il primo turno e non ce l'ho fatta, per cui sono uno di quelli che non è contento del risultato, anzi, e che lavorerà adesso per recuperare i punti che mancano, quel 2,5% che manca. Però dico che, a differenza di altre zone del paese, nella città di Firenze la sinistra continua a essere molto molto forte. Ci sono due sinistre che si sono confrontate, una sinistra è la sinistra che noi abbiamo proposto, capace di avere delle idee propositive, di metterla, diciamo, cioè io non posso fare l'accordo con quelli che ho cacciato di giunta perché mi dicevano no al termovalorizzatore. E da un comune importante come questo di Firenze ad un altro caso altrettanto importante, quello della provincia di Milano, dove il centrodestra sorpassa il centrosinistra del presidente uscente Filippo Penati. Guido Podestà, appoggiato da PDL, Lega, Nuovo PSI e Democrazia Cristiana, sentiamolo anche lui, intervenuto questa mattina, 24 mattina. Guardi, chi si è fermato, pur essendo uscente, si è fermato a 38% è Penati. Io sono arrivato a 48,8, in effetti è un peccato non aver avuto la possibilità di superare il 50%, ma aver dato 10 punti di distacco a chi per 5 anni ha avuto la possibilità di fare e non ha fatto, evidentemente, è un motivo di soddisfazione, perché 10 punti evidentemente sono tanti, è una bocciatura sonora di 5 anni di non governo, di 5 anni di immobilismo. Dopodiché tra 15 giorni avremo la possibilità, con l'impegno sia del Popolo della Libertà che della Lega, di poter finalmente dare una svolta al governo della nostra provincia. Questo per quanto riguarda dunque Firenze e Milano. Ci sono molte altre storie, molte altre sfide da raccontare per quanto riguarda le amministrative. Continueremo a farlo anche più avanti in Extra Large, in gran parte dicevamo dedicato oggi all'esito del voto, ma non solo. Però c'è un'altra storia che in qualche modo è emblematica di questa tornata elettorale e che arriva dalle europee. Emblematica almeno per quanto riguarda il rapporto tra il centrosinistra, il PD e le regioni del nord. Ed è quella del Friuli Venezia Giulia, dove a superare Berlusconi di ben 9.000 preferenze è stata una new entry in qualche modo. Deborah Serracchiani, che è segretaria del Partito Democratico a Udine e era balzata agli onori della cronaca a suo tempo per le contestazioni che lei aveva portato ai vertici del suo partito durante l'Assemblea Nazionale che si era svolta a marzo a Roma. Sentiamo Katia Caramelli, l'ha intervistata. Ha battuto il premier. Sì, beh, è una bella soddisfazione personale che non mi aspettavo, mi fa molto piacere, vuol dire che insomma ho fatto e abbiamo fatto come Partito Democratico in queste zone un buon lavoro. E ha battuto anche Luigi Berlinguer, però. Se vuole, ho battuto anche Umberto Bossi in tutta la circoscrizione del Nord-Est. Come mai secondo lei questo risultato suo personale? Ma credo che sia legato un po' a come mi sono presentata alle persone, un po' anche all'aiuto che ho avuto da tantissimi che si sono messi a mia disposizione. In cosa è stata premiata? Per le sue, diciamo così, contestazioni? Come dire, quello è stato il là, nel senso che quel discorso che ho fatto, pur critico, è stato l'inizio di questo percorso. Però credo che il premio non vada alla contestazione, ma vada ai contenuti di quello che poi dopo uno riesce a dire e come lo dice. Credo che sia questa la fortuna di questo mio viaggio. Quanto ha contato l'appoggio della rete? Ha contato tantissimo, perché è stato naturalmente il volano che mi ha fatto conoscere ad un pubblico più ampio e poi mi ha permesso di tenere i contatti con queste persone che altrimenti sarebbe stato per me difficile anche fisicamente raggiungere. Si è commossa perché l'hanno paragonata a Tina Anselmi. È un onore e un orgoglio, per cui sì, mi sono molto commossa. Io sono piuttosto soddisfatta per quanto riguarda naturalmente le europee, perché credo che partissimo da un risultato molto basso, da delle difficoltà evidenti e oggettive, e quindi abbiamo tenuto e abbiamo tenuto anche piuttosto bene contro ogni aspettativa. Tra l'altro credo che siamo riusciti a creare un argine al centrodestra. Berlusconi non solo non ha sfondato, ma proprio non è andato avanti, almeno sul livello europeo, per cui credo che si debba essere contenti. 13:33 e ancora GR24 Extra Large con le notizie di oggi. La Lega sfonda al centro, il PD cala anche nelle roccaforti rosse per le amministrative, ballottaggi al comune di Firenze e alla provincia di Milano. E intanto si apre già la campagna per il referendum. Berlusconi incontra Bossi e dice no all'appoggio alla consultazione per la riforma elettorale che sarà in contemporanea con i ballottaggi. Marchionne non cede, una corte americana ha bloccato l'operazione Chrysler, ma il Lingotto dice non molleremo. Clandestini nascosti nei tir per raggiungere l'Europa, sono scattati 46 arresti. Domani Gheddafi sarà a Roma e attende 700 donne italiane, ma alcune dicono no, non parliamo con chi non rispetta i diritti umani. Sul suolo americano il primo detenuto di Guantanamo sarà il progetto pilota di Obama. Roma sotterranea, siamo andati a visitare il cantiere della nuova linea metropolitana, ve lo racconteremo tra poco. Torniamo a parlare delle elezioni europee come test nazionale per quanto riguarda le forze politiche. Al di là del dato numerico nazionale dei partiti, lo ricordiamo velocemente, PDL 35%, PD 26%, Lega 10%, Italia dei Valori 8%, UDC 6,5%, è interessante, ed è quello che andiamo a fare tra poco, andare a guardare zona per zona dove sono radicati i partiti anche attraverso analisi specifiche. Ne parliamo con il professor Roberto Dalimonte, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuto Extra Large. Buongiorno a voi. Professor Dalimonte, iniziamo dal voto del principale partito, il PDL. Le attese erano francamente molto alte, 40-45%, dicevano alcuni sondaggi. Il dato è inferiore anche alle scorse politiche. Quanti sono i voti persi rispetto al 2008 e quali sono i motivi? Sono circa 3 milioni di voti che il PDL ha perso rispetto al 2008 e sono molti di questi concentrati al sud e soprattutto in Sicilia. C'è stato proprio un effetto Sicilia nel caso del PDL, un forte astensionismo in Sicilia e un fortissimo calo dei voti al PDL in Sicilia. Tanto per darle qualche dato, a Catania quasi meno 12, a Enna meno 11 e così via, insomma, in tutta la Sicilia siamo a cali a due cifre. Quindi elettori che non hanno votato o anche votato, voti che si sono spostati? E anche voti che si sono spostati, perché in Sicilia è andata molto bene Lombardo, che ha ottenuto oltre il 15%, anche se si presentava in coalizione con altri forze, quindi sicuramente sia astensionismo che flussi. Poi c'è il caso Sardegna anche in alcune province. Sì, è vero, però la Sardegna è più variegata. In Sardegna, per esempio, c'è sicuramente un effetto G8, cancellazione del G8, perché a Sassari c'è una perdita di 8 punti percentuali, così come Olbia Tempio, 12 punti percentuali, però nelle altre province della Sardegna siamo molto più contenuti come perdite, ma a Sassari proprio il Sassari e Olbia Tempio sono le due province. Dove c'è stato proprio la Sicilia, comunque io insisto sulla Sicilia. Questo è stato veramente il buco nero per i Cavalieri. Mm. Senta, invece a vincere queste elezioni, abbiamo detto, insomma, più volte è stata la Lega e anche l'Italia dei Valori. La Lega perché è riuscita, oltre che a crescere le sue percentuali, anche a penetrare nelle regioni, per esempio, del centro Italia. L'Italia dei Valori invece perché ha raddoppiato i suoi consensi. Senta, però qua le chiediamo una spiegazione. Sono, oltre poi a spiegarci i flussi, sono voti reali, sono nuovi voti oppure sono anche effetto di percentuali che crescono perché c'è un astensionismo, ricordiamolo, alle europee si è votato molto meno che alle politiche? Questo è un punto importante. Allora, nel caso dell'IDV sono voti reali, sono test, perché l'IDV aveva il 4%, è passato all'8%, e se uno va a vedere sono in valori assoluti, quindi come numero di elettori l'IDV ha più elettori nelle elezioni, non solo più punti percentuali, ma più elettori in queste europee di quello che aveva nelle politiche dell'anno scorso. Ma questo va da sé, perché quando un partito passa dal 4 all'8 non sono solo i percentuali che cambiano, ma anche gli elettori, nonostante il calo dell'affluenza. Più interessante invece il punto per la Lega, perché la Lega in alcune zone aumenta proprio il numero degli elettori, non soltanto. Le faccio un caso, ad esempio si è fatto molto clamore sul sfondamento della Lega in Emilia e anche in Toscana, ma in realtà la Lega si è rafforzata molto anche in Liguria e in Piemonte, dove era già relativamente forte, e in queste zone, in alcune province del Piemonte, le faccio per esempio il caso di Asti, la Lega è aumentata in valori assoluti proprio, anzi le faccio un caso proprio in Piemonte, complessivamente in Piemonte la Lega ha preso 34.000 voti in più rispetto al 2008, in Liguria ha preso 15.000 voti in più rispetto al 2008, mentre ad esempio in Lombardia ha perso 188.000 voti rispetto al 2008. Quindi è molto più variegata la situazione della Lega. Quindi le percentuali bisogna appunto stare attenti, perché esatto. Poi la percentuale su un totale diverso ovviamente può influire. E quindi adesso partirà l'analisi specifica. Esatto, no, questo dà maggior valore a quei casi in cui, nonostante il calo dell'affluenza alle urne, un partito aumenta gli elettori e non soltanto. E quindi lì l'aumento c'è stato indipendentemente dall'astensionismo. Sì, altro capitolo, professor Dalimonte, anche il PD ha perso voti, ma in modo omogeneo sul territorio nazionale. Ci sono però in modo più omogeneo. Ci sono però due casi in cui il PDL lo sorpassa lasciando un po' il segno, che sono l'Umbria e le Marche. Sì, ecco, perché in Umbria e le Marche il PD è andato molto male, anche qui le do dei dati. A Perugia ha perso 10 punti percentuali, e tenga presente che la media, come avete già detto voi, di perdite del PD è intorno ai 7 punti percentuali. Bene, a Perugia ha perso il 10, a Terni l'11, ad Ancona il 12, a Ascoli Piceno quasi il 13, a Fermo il 12, a Macerata il 12, potrei andare avanti così. Vede, quindi in queste due regioni ha perso più che molto più che la sua media nazionale. Questo spiega il fatto che il PDL sia diventato il primo partito in Umbria e Marche. Professor Dalimonte, un'ultima cosa flash gliela vogliamo chiedere, anche se so che lei sta ancora lavorando e sta ancora analizzando i dati, non so se ha già a disposizione tutte le analisi dei flussi. La sinistra cosiddetta radicale, che è nuovamente scomparsa, diciamo, in questo caso anche dal Parlamento europeo, tutto effetto della divisione o anche qua c'è una perdita di voti? Scusi, mi permetta di domanda perché stavo vedendo un'altra cosa, anzi raggiungo una cosa, a proposito, tornando indietro alla domanda precedente, teniamo conto anche del successo di Di Pietro in queste regioni, le Marche e l'Umbria, che spiegano, ora mi perdoni, mi puoi rifare la domanda? Sì, sì, e la domanda era questa sulla sinistra, io so che lei sta appunto elaborando ancora i flussi, non so se ha già tutti i dati, la sinistra radicale che scompare dal Parlamento anche in questo anche europeo in questo caso, tutto effetto delle divisioni tra le due forze che non hanno superato il quorum o c'è una perdita di voti anche qua? Dunque, la divisione è assolutamente un fattore determinante perché con la soglia del 4% uno si divide e perde. E direi che la sinistra radicale ha aumentato in percentuale, in questo caso non in valori assoluti, ha aumentato in percentuale i suoi voti rispetto al 2008 un pochino, quindi c'è una piccola ripresa in percentuale, però siamo lontani dalle percentuali dei voti che aveva prima del tracollo del 2008. Parlando di flussi, ecco, questo posso aggiungere questo. Si è molto parlato dei flussi dal PD all'IDV e questo è vero, l'IDV cresce a spese del PD, una parte dei voti persi dal PD sono andati all'IDV, però non è così dappertutto nel paese, a noi risulta, siamo abbastanza certi, che questo si è verificato nelle regioni del nord e del centro, mentre al sud il modello di flussi, il pattern dei flussi è molto più a favore dell'IDV, è molto più complicato. E lì sono tutti temi che ancora andranno analizzati nei prossimi giorni. Grazie al professor Roberto Dalimonte, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie. Un ascoltatore ci scrive, qualche sms arriva, dite ai nomi degli eletti in Europa anche se provvisori. Beh, torniamo anche sugli eletti in Europa. Fuori nomi, Sergio Nava, forse fuori nomi, tutti però, Non tutti ovviamente, però quello che abbiamo fatto stamattina è stato andare qui a Milano all'ufficio del Parlamento europeo dove c'è stata la prima conferenza stampa degli eletti, precisiamo, del nord-ovest perché l'ufficio di Milano del Parlamento europeo si occupa dell'area settentrionale dell'Italia e allora sentiamo alcune di queste loro voci. Partiamo con Lara Comi che è una delle più giovani nuove eurodeputate, ha 26 anni, PDL tra le tre giovani anche poi evidenziate dallo stesso Premier e a lei abbiamo chiesto tre priorità per il suo mandato e anche abbiamo parlato di direttiva del lavoro. Innanzitutto l'ambito dell'istruzione, cercare di uniformare la scuola a livello europeo e quindi cercare di avvicinare sempre più l'istruzione italiana per poterla adeguare a tutti gli standard europei. Il secondo obiettivo è quello dato dal lavoro, quindi da un concetto di prima occupazione, perciò eliminare quel gap che sussiste tra l'istruzione, quindi tra la scuola e il lavoro. E il terzo è quello di tutelare il Made in Italy, è un argomento a me molto caro e importante per la nostra nazione. Lei ha citato il lavoro, c'è anche la direttiva sull'orario del lavoro, di cui si è parlato molto in questa legislatura e in realtà non si è riuscita ad approvarla. Allora qual è la sua posizione? Io penso che sarà necessario fare un confronto a livello europeo e quindi discuterne insieme. Dare ora il mio parere penso che non sia corretto. Prima vorrei capire le motivazioni anche degli altri paesi e poi valuteremo. E da Lara Comi a Pier Antonio Panzeri del PD, un veterano di Strasburgo, c'è già stato per tutta la scorsa legislatura e anche lui tre priorità e poi soprattutto la collocazione del PD all'interno dell'Europarlamento. Penso che la cosa principale sia quella di rafforzare la dimensione politica istituzionale dell'Europa, il che significa che questa legislatura dovrà impegnarsi rapidamente per mandare in porto il Trattato di Lisbona perché ne abbiamo bisogno. Il secondo obiettivo è quello di un approfondimento del processo di integrazione economica e sociale e direi che il terzo è più un invito che credo debba essere fatto all'intera squadra italiana che sarà a Bruxelles e Strasburgo, cioè quella di tentare di fare un gioco di squadra che è mal riuscito nell'ultima legislatura. Nella prossima ci dovrebbe essere un'unione tra socialisti e PD con un nuovo gruppo, lei conferma? Penso di sì, che nascerà probabilmente un gruppo che si chiamerà Alleanza dei Socialisti e Democratici dove i deputati del PD credo che si collocheranno. Novità assoluta nel Parlamento europeo, anche Magdi Cristiano Allam dell'UDC, che è il nuovo eurodeputato. Allora, con lui abbiamo parlato di crisi economica e poi anche della laicità, perché come ben si sa è un tema caro ad alcuni settori dell'Europarlamento, il caso Buttiglione ce lo ricorda, e allora sentiamo cosa ci ha detto Magdi Cristiano Allam. Dobbiamo far conoscere quella che è la realtà di questa crisi strutturale della finanza e dell'economia internazionale. Dobbiamo far conoscere un dato di fatto basilare, e cioè che è venuto meno un mito ideologico, quello del libero mercato che si autoregolamenta da sé. La via d'uscita è una via d'uscita che non può che ispirarsi alla dottrina sociale della Chiesa, che mette al centro la dignità della persona. Dobbiamo investire in tutte quelle realtà che rappresentano delle specificità nazionali e comunitarie europee. Penso soprattutto alla piccola e media impresa. Il Parlamento europeo ha spesso dimostrato di avere posizioni molto laiche, ricordiamo tutti il caso Buttiglione. Non teme che queste sue posizioni possano portarle dei problemi? La laicità è parte integrante di un sano cristianesimo. Diverso è il caso del laicismo imperante nell'Unione europea, che vorrebbe escludere la fede, il cristianesimo, dall'ambito della sfera pubblica. E ora bisogna solo aspettare allora che tornino al lavoro, che cominciano a lavorare. Nel frattempo, grazie a Sergio Nava. Grazie a voi. Sono le 13:47 minuti e prosegue GR24 Extra Large. Siamo occupati lungamente di elezioni, dei risvolti delle elezioni europee amministrative, insomma è stato questo il focus oggi di Extra Large. Adesso invece vi portiamo in uno scenario un po' diverso, cambiamo davvero tema. Andiamo sotto il suolo di Roma, da dove è appena risalita la nostra Chiara Di Michele. E davvero non è uno scherzo, perché come vi avevamo preannunciato, Chiara, sei andata a visitare il cantiere della nuova linea C della metropolitana, giusto? Sì, esattamente. Al momento mi trovo al campo base Gordiani di Metro C. Dopo questo tour nei cantieri della terza linea metropolitana romana, i direttori del progetto questa mattina hanno accompagnato noi giornalisti nel cantiere di Giardinetti, dove a settembre sono partiti gli scavi. Con una navetta speciale, detta la Parigina, gli operai ci hanno introdotto con tanto di caschetto e pettorina nel tunnel che stanno scavando, un viaggio di 3 km fino alla TBM, la tappa meccanica che lavora 24 ore su 24. Scava e allo stesso tempo monta il rivestimento della galleria. Da settembre a oggi due macchine hanno scavato in tutto 7 chilometri, considerando i due tunnel paralleli. Il primo viaggio è previsto per la fine del 2011 per la tratta Pantano-Centocelle. Siamo ancora nella periferia sud-est di Roma. Bisognerà scavare fino al nord-ovest della città, nella zona Clodio Mazzini, attraversando il centro storico che, beh, non si sa mai quale sorprese della Roma antica riservi, ma per questo si stanno svolgendo delle accurate indagini archeologiche. I lavori, secondo l'assessore alle politiche della mobilità Sergio Marchi, procedono a ritmo serrato. Entro il 2013 sarà inaugurata la tratta Pantano-San Giovanni. Un'ultima particolarità del progetto riguarda i treni. Sono senza macchinista, guidati a distanza da un sistema di automazione integrale. Quindi è tutto a voi. Nuovissime tecnologie, però tu che tra l'altro sei vivi a Roma, quanto è importante questa infrastruttura per la capitale, ce lo puoi raccontare? E tra l'altro questo è un progetto che, insomma, sono anni e anni che Roma aspetta, no? Assolutamente, è un progetto che ci aspetta da anni e che soprattutto collegherà il sud-est della città con il nord-ovest. Infatti l'assessore parla di un progetto di un'importanza anche a livello europeo, che ci permetterà di comunque recuperare quel gap con le altre città europee a livello infrastrutturale, di collegamenti della metropolitana. Chiara, tutto bene comunque col caschetto, i lavori sotto procedono? Sì, come è andato? Sì, i lavori sotto procedono. Diciamolo, tu non eri sul treno, quello che poi verrà usato davvero per la metropolitana? No, ancora no, però veramente poi la galleria è illuminata a giorno, quindi insomma, magari anche perché ha problemi claustrofobici, questo sarà superabile, perché appunto è veramente confortevole, ecco. Benissimo. E poi è stato emozionante arrivare fino a questa macchina, a questa talpa, la TBM appunto, che è veramente particolare vedere il suo lavoro, perché scava e allo stesso tempo costruisce la galleria, e quindi è veramente emozionante. Grazie Chiara Di Michele. I romani insomma stiano tranquilli perché i lavori vanno avanti, presto ci sarà insomma la prima tratta inaugurata, insomma presto. Vabbè, qualche timore claustrofobico, ma è valsa la pena per raccontarvelo. Per avere questo racconto. Adesso invece parliamo di libri, si intitola Coma all'amore, l'ultimo libro di Ugo Riccarelli, pubblicato da Mondadori. Protagonista Beniamono, che ormai vecchio ricorda quando spiava i malati di mente rinchiusi nel manicomio della città. Finirà per lavorarci in quel manicomio insieme a uno psichiatra con idee rivoluzionarie, ma ecco come Ugo Riccarelli descrive il suo protagonista al microfono di Alessandra Tedesco. Beniamino è... fin da bambino affascinato dai matti che vivono vicino a casa sua, e nella sua vita riuscirà a andare a lavorare in questo universo del tutto particolare, entrandoci dentro, scoprendolo e mettendosi in rapporto. Allora direi anche che Beniamino sono forse i nostri occhi, gli occhi con cui noi dovremmo vedere meglio gli altri che ci stanno vicino, e le orecchie con cui dovremmo ascoltare le voci di quelli che ci stanno vicino, perché probabilmente solamente mettendoci in rapporto, come fa Beniamino, giocando anche una parte di se stesso con gli altri, in questo caso con dei particolari altri, perché sono delle persone con una disabilità mentale, si riesce a conoscere meglio noi stessi. Qual è lo sguardo di Beniamino e quindi quello che dovremmo avere noi? Sì, spesso sono atteggiamenti di difesa, perché la malattia mentale ci disarma, no? Ci pone di fronte ai lati più profondi di noi che ci inquietano, ci danno fastidio. Beniamino invece, direi, ritorna a una sorta di naturalità, perché lo sguardo con cui guarda queste persone non a caso è uno sguardo infantile, da bambino, cioè quindi pulito ancora di tutte quelle sovrastrutture, di quei condizionamenti che... in qualche modo poi vengono posti sui bambini. Non a caso c'è sempre, all'inizio si vede, si sentono queste voci della mamma o della nonna che lo richiamano quando lui guarda questi matti, perché non è bene guardare i diversi. E allora riepiloghiamo le principali notizie di oggi. La Lega sfonda al centro, il PD cala anche nelle roccaforti rosse per le amministrative e ballottaggi al Comune di Firenze e alla provincia di Milano. E si apre intanto la campagna per il referendum, Berlusconi incontra Bossi e dice no all'appoggio alla consultazione per la riforma elettorale. Marchionne non cede, una corte americana ha bloccato l'operazione Chrysler, ma il Lingotto dice non molleremo. Clandestini nascosti nei tir per raggiungere l'Europa, 46 arresti, domani Gheddafi a Roma attende 700 donne italiane, ma alcune dicono no, non parliamo con chi non rispetta i diritti umani. Sul suolo americano il primo detenuto di Guantanamo sarà il progetto pilota di Obama. Roma sotterranea, vi abbiamo raccontato poco fa il cantiere della nuova linea metropolitana. Ed è tutto per questa edizione di GR Extra Large. Anna Migliorati, Alessio Maurizi in studio, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Pietro Lacorte. L'appuntamento, come sempre, domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.